Fuori è già inverno, buchi e venti fra i rami, una strada di scena, ho nuovi panorami, giù la tapparella per la penichella. Se il mondo è cattivo, con te un motivo c'è. Hai la faccia sconvolta, non dormi abbastanza la notte, ma dove te ne vai? Fa un freddo becco, sembra di essere al polo, una strada di scena, di buco da solo, giù la tapparella, rock blast off. Se il mondo è cattivo, te un motivo c'è. Hai la faccia sciupata, non ci vedi bene, prova con le carotine. C'è l'allarme smog, non si vede ad un passo, una strada di scerno la percorro adesso, giù la tapparella, è ora della canna. Se il mondo è cattivo, con te un motivo c'è. Hai la faccia quiz, gli occhi uno schiribizza, hai provato con i fiori.